Essere e avere di Maria Luisa Pezzali. Buon pomeriggio da Maria Luisa Pezzali. Oggi con Essere e Avere, dimmi cosa compri e ti dirò chi sei, andiamo a fare shopping nei negozi più belli del mondo. I nuovi templi del consumo, mix di design, tecnologia, sostenibilità, cultura e giusto prezzo. Parliamo poi di nuove forme di marketing nei cinema e, per il focus sui trend, di no cost, quando il prezzo zero fa tendenza. Ma iniziamo come sempre con le notizie e curiosità di questa settimana. Tutti pazzi per la bicicletta senza catena. Le cinghie sono fatte di poliuretano e fibra di carbonio e non devono essere lubrificate. Addio macchie di olio sui pantaloni. È il rosso il colore protagonista dell'inverno. Infiamma sia gli accessori, scarpe, borse e cappelli, sia l'abbigliamento dai cappotti ai tailleur. E anche il make-up riscopre labbra e unghie scarlatte. La Romania sceglie Facebook per cercare di attirare turisti da tutto il mondo. È la prima volta che il popolare social network collabora con un'istituzione pubblica. Anche sul social network professionale LinkedIn, intanto, arrivano le recensioni degli utenti. Sulle company pages, le pagine delle aziende, ci sono liste di prodotti e servizi che gli utenti possono recensire. Il primo lancio ha coinvolto 32 compagnie, tra cui Microsoft, HP, Dell e Volkswagen. È firmato Garage Design, il bando speciale Designed in China, Made in Italy, che vedrà i migliori designer cinesi esporre fianco a fianco ai designer italiani selezionati per il Milano Fuori Salone 2011. Tra provocazione e curiosità, il progetto si propone di allargare lo sguardo oltre gli stereotipi, dedicando un corner alla Cina creativa. Raccoglie consensi anche tra i consumatori la proposta di Confcommercio di istituire una data unica per i saldi: 6 gennaio per l'inverno, primo sabato di luglio per l'estate. Il federalismo degli sconti, dicono i commercianti, non ha funzionato. La borsa della spesa. Shanghai, Londra, New York, San Paolo, Milano, Bologna sono le città dove hanno sede alcuni fra i migliori negozi al mondo, selezionati tra oltre 40 punti vendita internazionali come finalisti del Retail Innovation Award, il premio per il retail più innovativo, quello che sta disegnando il consumo che verrà. Il primo premio quest'anno è stato assegnato a Happy Family, catena cinese di department store famosa per i servizi ai clienti. Happy Family ha battuto in finale il National Geographic Store di Londra, l'American Eagle di New York, il flagship Havaianas di San Paolo, il Temporary Store Pirelli Diablo Rosso di Milano e lo Spazio Ambasciatori di Bologna. 1500 metri quadri di cibo e cultura nel centro della città, firmati Italy e Librerie Coop, che ha ricevuto una menzione d'onore. Con l'architetto che ha progettato proprio questo spazio, Paolo Lucchetta, fondatore di Retail Design, abbiamo parlato dei punti forti di questo progetto per cercare di capire quali siano gli ingredienti vincenti per il retail del futuro. Ci sono due aspetti fondamentali. Il primo è chiaramente l'innovazione di tipo commerciale, cioè uno spazio sostanzialmente costituito di cibo, cultura ed eventi, configurati in una modalità del tutto innovativa, cioè quindi non separati fisicamente ma con una continua osmosi appunto tra le attività che coinvolgono i clienti. Il secondo aspetto è sicuramente l'eccezionalità del luogo, un luogo che era stato il mercato coperto di Bologna, all'interno della quale poi c'era una chiesa sconsacrata e un cinema. Le preesistenze all'interno del luogo raccontano proprio delle tracce di storia della città. Ecco, si parla molto e polemica spesso sui centri storici che muoiono anche dal punto di vista proprio commerciale, così a favore dei grandi poli commerciali, grandi centri commerciali nell'hinterland delle città. In questo caso invece quello che è bello è che è uno spazio che coniuga storia e innovazione ma nel cuore della città. Credo che sia un fatto estremamente positivo che abbia avuto una risonanza internazionale, un progetto che si basa sulla riqualificazione dei centri storici. Oggi ripensare sull'architettura esistente è un atto di sostenibilità, molto più che naturalmente produrre nuove architetture, soprattutto extraurbane. Quindi se in 30 secondi le chiedo di condensare un pensiero sul negozio del futuro, una visione un po', tanti dicono la fisicità morirà, sarà tutto virtuale, eccetera. Lei a questo riguardo cosa mi risponderebbe? Io credo che il mondo reale e il mondo virtuale dello shopping siano destinati assolutamente a convivere. Questa grande diffusione del web sarà sicuramente una modalità di acquisto sempre crescente. Per certi aspetti questo renderà ancora più interessanti invece i punti relazionali, quelli in cui il valore dell'esperienza, il valore dello scambio, il valore comunque della condivisione dovrà essere assolutamente contemplato nelle nuove tipologie commerciali. Per cui vedo esattamente questi due fenomeni paralleli e credo fortemente collegati ai nuovi significati delle culture d'impresa. Anche in tempi di crisi il punto vendita fa la differenza nelle scelte del consumatore, ci ha detto Nicola Nicoletti della società di consulenza PricewaterhouseCoopers. Lo abbiamo incontrato di recente in occasione del 4° Consumer and Retail Summit. La spesa, quindi il momento della spesa, non viene visto dai consumatori come un momento di stress. Solo il 7% del campione ha dato una risposta che fa la spesa in fretta, quindi quasi di corsa. Invece ben oltre il 70% recepiscono invece la spesa come un fattore pieno di stimoli, quindi gli stimoli dentro il punto vendita vengono recepiti dal consumatore. Questo ha un impatto fondamentale nella scelta delle strategie del punto vendita. Questa rivoluzione non è a senso unico. A strizzare l'occhio ai negozi, alle loro formule, sono anche altre realtà come il cinema, nuovo terreno fertile per la promozione dei prodotti e la comunicazione di marca. Ce ne parla il direttore di Markup, Luigi Rubinelli. Provate a pensare al cinema come ad un negozio. Vi accorgerete allora di vedere cose che ultimamente non avete visto. Ecco qualche esempio. Consegnando il biglietto del cinema Vis Pathé del centro commerciale I Gigli di Campi Bisenzio a Firenze, alla cassa del cinema e dei ristoranti, si ha diritto ad uno sconto del 20%. Al cinema Plinius di Milano è possibile prenotare sushi da consumare durante la visione del film. Eccone un'altra. In Austria, alcuni addetti seduti nelle sale durante la proiezione di un film, al passaggio dell'inquadratura sul mobile IKEA, hanno proiettato sullo schermo con un mezzo portatile il prezzo del mobile stesso che state guardando. Siamo passati dal volantino all'interazione, all'inseguimento del cliente nel suo tempo libero. Per rendere più realistico lo spot del prosciutto di Parma durante la proiezione dello spot stesso, sempre al cinema, pannelli laterali proiettano in sincronia immagini del vento e con un sistema acustico viene riprodotto un effetto audio con suono di vere e proprie folate di vento nei corridoi laterali. Ma oltre alla comunicazione pubblicitaria, ecco la comunicazione di marca. In un cinema brasiliano Kinoplex di Itaime, i gestori hanno provveduto all'installazione di poltrone colorate brandizzate da MMM. Auchan, catena di ipermercati, punta diritto alla fidelizzazione. Ha lanciato infatti un concorso riservato ai possessori di carta Nectar, sempre al cinema. Con una spesa minima di 60 euro si ottiene uno scontrino per vincere online 2 biglietti per il film Benvenuti al Sud. E per concludere, una classica promozione. Amadori, con l'acquisto di 2 confezioni di prodotti promozionati, si riceve un buono Io vado al cinema pass 2x1. Consegnando il buono al cinema si ha diritto ad un ingresso omaggio previo acquisto di un biglietto intero. Siete ancora convinti di andare al vostro cinema preferito o convenite con noi che state entrando di fatto in un centro commerciale? Essere e avere. Di nuovo in studio con Essere Avere. Abbiamo preso in prestito lo slogan della popolare trasmissione anni 80 per introdurre il tema del focus sui trend di questa settimana, che ruota proprio intorno al concetto di prezzo giusto. Capiremo il perché tra pochissimo in compagnia, come sempre, della nostra esperta Patrizia Martello, docente di sociologia dei consumi e analisi delle tendenze alla Nuova Accademia di Belle Arti NABA di Milano. Patrizia, ben ritrovata. Grazie, buongiorno a tutti. Oltre il low cost, la tendenza del momento, amica dei consumatori, si chiama no cost. Dopo il boom del baratto e degli acquisti partecipativi, gli acquisti di gruppo online che spuntano, per così dire, il prezzo più basso, a far parlare di sé ora sono gli acquisti a prezzo zero o comunque a prezzo giusto, appunto. Dal free software e free download ai prodotti in comodato d'uso o a quelli offerti come tester, fino ai ristoranti in cui decidi tu il conto, paghi cioè quello che ritieni giusto pagare. Una vera e propria free economy è un'economia del gratuito che in realtà, una volta chiuso il cerchio, per così dire, fa guadagnare qualcosa a tutti. Patrizia. Prezzo giusto e no cost possiamo dire che sono due facce della stessa medaglia. Giusto è comunque un concetto relativo, la domanda è il prezzo giusto per chi? Naturalmente per i consumatori, da sempre chiamati a valutare i prezzi stabiliti, adesso li possono stabilire da sé. E un modo per poterlo fare è intercettare le iniziative promosse con il pay what you like. Paga quello che vuoi, una tecnica specifica del marketing, un approccio per così dire laissez-faire ai prezzi, con il quale i prodotti e servizi offerti non hanno un prezzo predeterminato, lasciato quindi alla discrezionalità del consumatore, che deve chiedersi ogni volta quanto vale per me quello che sto mangiando, quello che sto bevendo, questa stanza d'albergo e così via. Perché le aziende offrono prodotti e servizi no cost, invitando il consumatore a farsi carico di determinarne il prezzo? È una sorta di esame di realtà per testare sul campo quanto si vale per i propri consumatori, quelli fidelizzati o quelli potenziali, e in effetti il miglior modo è di farglielo esprimere non tanto a parole, con il racconto dell'esperienza, della soddisfazione, ma con il denaro che sono disposti a spendere per ciò che gli offriamo. Tutto è cominciato qualche anno fa quando i Radiohead, gruppo musicale notissimo, lasciarono scaricare gratuitamente il loro album In Rainbows, chiedendo ai fan di pagare il prezzo che ritenevano quella musica valesse per loro. Le vendite arrivarono a 10 milioni di dollari. Questa formula si è diffusa in settori diversi, nel food and beverage con particolare incremento. Sono moltissimi locali a Berlino, per esempio, che ultimamente usano la formula pay as you will, dove si beve, si fa qualche spuntino e prima di uscire si paga il dovuto, per così dire, che diventa un prezzo discrezionale legato alla soddisfazione sì del prodotto ma anche dell'esperienza complessiva vissuta. A Melbourne sono tre i locali, si chiamano Lentiles Anything, che applicano la variante paga quello che ti puoi permettere. Dunque, se riviste, ristoranti, hotel, anche come l'Hotel Ibis di Singapore, che ha lanciato addirittura una promozione per un soggiorno intero con la formula paga quanto vuoi, riescono ad applicare questo modello, chiunque lo può adottare e declinarlo sulle proprie specificità. Dunque, a fronte della possibilità di un no cost letterale, cioè se vuoi non paghi proprio nulla, in realtà prevale tra i consumatori un senso di responsabilità, di capacità di attribuzione di valore anche economico a ciò che si consuma, e questo i consumatori lo esprimono dimostrando ancora una volta grande competenza e nessuna asimmetria con l'azienda erogatrice. Fra i primi a teorizzare il gratuito come nuova formula di marketing, come forma di induzione al consumo, Chris Anderson, il direttore di Wired, la celebre rivista americana punto di riferimento per tecnologia e new media. Ecco come Anderson spiega come fare business a partire dal prezzo zero. La chiave è la formula freemium, espressione che nasce dalla sintesi di free e premium. Freemium is really what I would call the first 21st century business model. Freemium è quello che noi chiamiamo il primo modello di business del XXI secolo. Se hai un prodotto digitale, puoi distribuire il 90%, puoi regalare fino al 95-99%. Quello che poi devi fare è convertire una frazione dell'utilizzatore gratuito del tuo prodotto in utilizzatore pagante, ma offrendogli di più. Ecco cosa fa il freemium. In un certo senso, il freemium è il nemico della pubblicità, è il contrario della pubblicità. Le compagnie che usano questo modello non usano nessun'altra forma di pubblicità o di marketing, perché il prodotto gratuito si piazza da solo. Quello che devi fare non è convincere la gente a comprarlo, ma solo a provarlo. E il prodotto si autopromuove, e quando verrà il momento di pagarlo, lo faranno molto volentieri. Patrizia, è una formula che funziona solo per i prodotti legati alla tecnologia, come abbiamo sentito, o può essere applicata anche ad altri settori? Beh, certamente freemium è un modello di business trasversale. Lo stesso Anderson ha usato il freemium con il suo libro, free, tradotto in italiano con gratis, quando è uscito. L'ebook era in download gratuito e questo ha di fatto trascinato le vendite della versione cartacea a pagamento. Dunque, il valore in più per il consumatore in questo caso era avere il libro fisico e non semplicemente il file. Il risultato è che il libro ha scalato le classifiche ed è stato per lungo tempo uno dei più venduti. Un altro esempio, stando nel mondo dei libri, sono gli ebook, la cui prima metà si scarica gratis e la seconda si acquista. Dunque, parte no cost e parte premium. Ma appunto non è solo ciò che ha a che fare con le tecnologie, col digitale, che può, diciamo, essere l'applicazione del freemium. Per esempio, in ambito automotive abbiamo esempi di no cost nel settore noleggio, dalle auto elettriche in comodato d'uso a idee imprenditoriali un po' più social, come quella di Transfercar, una startup neozelandese che affitta macchine a costo zero combinando i tragitti di riconsegna delle auto vuote con quelli dei clienti. Il tutto è facilitato da un sito web che raccoglie le richieste di spostamento e SMS che avvisano quando un'auto è disponibile per un certo percorso. In altri casi, una volta fidelizzati, possono ricorrere alla stessa agenzia anche a pagamento. C'è però il no cost, quello totale estremo alla lettera. Nel mondo del retail ha avuto molta risonanza mediatica quando ha aperto i battenti a Barcellona qualche tempo fa il primo negozio no cost, il primo negozio gratuito d'Europa. Si chiama Es lo Último, in spagnolo vuol dire l'ultima tendenza, e di fatto realizza un po' il sogno proibito di ogni consumatore, cioè fare shopping gratis. Con una tessera annuale di pochi euro si accede una volta al mese alle offerte, si può scegliere a piacimento solo 5 prodotti a costo zero e ne va motivata la scelta, cioè si tratta di scambiare con l'azienda recensioni e valutazioni delle specifiche tecniche dei prodotti acquistati, per così dire presi. Quindi è molto interessante in espansione l'universo no cost legato ai test di prodotto, perché di questo si tratta. I free product test sono soprattutto pensati in questo momento per i blogger, che sappiamo essere diventati dei connettori, dei ponti tra consumatori e brand. Bene, i blogger più influenti, quelli che creano molto rumore, molto buzz intorno alle cose di cui parlano nei loro post, oggi mangiano gratis, vestono gratis, hanno gadget e device tecnologici gratis, cosmetici gratis e così via. Quindi i brand guadagnano in esposizione, hanno pubblicità gratis attraverso i loro blog seguitissimi. Ancora una volta vincono sia i consumatori che i brand. Cosa c'è di nuovo a... Cosa c'è di nuovo a Langenfeld, Austria, su no cost e dintorni? Ce lo racconta la nostra Urban Watcher, Alessia Zampano di Memetic Lab. Ben ritrovata, Alessia. Grazie, un saluto a tutti. Questa cittadina è uno dei principali centri turistici delle Alpi Tirolesi. Nell'estate dello scorso anno ha lanciato un progetto pilota di marketing territoriale perfettamente in linea con questa tendenza, che ha fatto parecchio parlare di sé. Il Live Quality Check, l'iniziativa si chiama così, invitava i turisti ospiti a provare gli alberghi, i ristoranti e tutte le attrezzature della località per un fine settimana. Al momento di partire veniva loro chiesto di compilare un questionario sulla propria soddisfazione e sulla qualità dei servizi percepita, in cambio del quale ogni cliente poteva stabilire il prezzo dell'intera vacanza, quello insomma secondo lui più adeguato. Gli ospiti non si sono dimostrati semplicemente entusiasti, ma per ben l'80% hanno deciso spontaneamente di pagare un prezzo non inferiore a quello dei listini. Grazie Alessia. Patrizia, per concludere torniamo alla citazione iniziale. Quando un prezzo è giusto? Chi lo deve decidere a questo punto? Dunque, va introdotto un altro concetto, quello di value price, cioè del prezzo giusto relativamente a un certo valore percepito. È interessante la componente di iniziale generosità che fa da attrattore attenzionale per il consumatore ed è un nuovo valore guida nella dinamica relazionale brand-consumatore. D'altra parte, il codice del dono, dello sharing, è costitutivo della cultura digitale nella quale i più giovani di fatto vivono. Si parla già di Generation G, dove G sta per generosity, e dunque l'entrata di questo paradigma anche nel mondo dei consumi non è sicuramente un fenomeno passeggero, perché mutua questo valore dello sharing e lo traduce in una tecnica di marketing.